Linee d'ombra di Matteo Caccia. Si è seduta vicino al mio letto e abbiamo iniziato a parlare come se ci fossimo lasciate ieri. È stato un momento di grande emozione e di sollievo. Storia di fratture ricomposte, ritorno al passato e di incontri con il proprio idolo in una puntata che si intitola Dopo tanto tempo. Passando accanto a queste case sento tutto un odore di tute indossate al posto dei vestiti, un odore di videocassette, cani in giardino a far la guardia e pizze già pronte dentro scatole di cartone. Ma perché sono venuti qua giù 30 anni fa? Scusi, ma perché siete venuti a abitare qui a Casalpalocco? Ma guardi che verde, la tranquillità. Sì, verde, ma voi sono sicuro una trentina d'anni fa, no? Siete venuti qua 61... 62. Ecco, 30 anni fa a Roma era una città meravigliosa. Ma qui è diverso. Sì, è diverso anche ora, ma Roma allora era bellissima, capisce? Questo mi spaventa. Cani dietro i cancelli, videocassette, pantofole. C'è una generazione, e io indubbiamente sono all'interno di quella generazione, che ha avuto per questo film che avete appena sentito, che è Caro Diario di Nanni Moretti, una sorta di venerazione assoluta, una parte di una generazione, ovviamente non tutta la mia generazione. Io ricordo che facevamo con gli amici di Novara delle sessioni per vederlo e per rivederlo. Io so praticamente a memoria questo film, questo piccolo pezzo in cui Nanni Moretti arriva a Casalpalocco. Io non sapevo cosa fosse Casalpalocco, essendo piemontese, all'epoca vivevo ancora al mio paese, a Romentino, in provincia di Novara, frequentavo Novara, era la città più grande che frequentavo, non sapevo che fosse un quartiere di Roma e che, come dire, marcasse una lontananza rispetto alla città, rispetto a dove si trovano i cittadini di Roma. Poi Roma è vastissima, quindi ha poco senso anche parlare di vicinanza da un certo punto di vista per quanto riguarda quella città. Però insomma, a Casalpalocco, la prima volta che sono andato a Roma in vita mia, sono andato a cercare dove fosse, perché volevo conoscere i luoghi di quei film. Sapete come succede quando un film ti entusiasma al punto tale che vuoi sapere tutto. Di lì a poco, nella scena successiva, Nanni Moretti incontrerà Jennifer Beals, che è, per chi non se lo ricorda, è la protagonista di Flashdance. La incontra per strada e ha tutto questo trip per la danza e per il ballo Nanni Moretti in questo film, e a un certo punto, visto che continua a citarla, appare sulla strada, se non ricordo male lungo il muro torto da quelle parti, appare Jennifer Beals e lui la ferma e dice: ma lei è Jennifer Beals? E lei dice: sì, sono Jennifer Beals. Vabbè, inutile dire che se non l'avete visto guardatevi Caro Diario, è inutile dire che magari anche questa sera me lo riguardo, visto che in queste giornate di quarantena così particolari, insomma, qualcosa da fare ce lo si trova, qualcosa di diverso dal solito. Noi ad esempio siamo completamente diversi dal solito, perché Linee d'ombra va in onda da casa. In questo momento io mi trovo in questa stanzetta di casa mia, su una scrivania, con un appendino davanti con degli abiti per attutire il più possibile il suono. È probabile che non lo sentiate, ma sotto alla mia scrivania c'è il mio cane, che è spaventato per il fatto che c'è del vento fuori, sbattono le finestre e al primo rumore si spaventa, e quindi si accoccola qua tra le mie gambe per cercare un pochettino di protezione. Ma noi comunque continuiamo a costruire, a confezionare queste puntate. Siamo molto fortunati, possiamo farlo da remoto, possiamo farlo da casa, e cerchiamo però di rilasciarvi ogni puntata di Linee d'ombra al meglio, cioè di raccontarvi delle storie che stiano intorno a un nucleo ben preciso. In questo caso il nucleo è il tema della puntata, e cioè dopo tanto tempo. Ve lo dicevo negli altri giorni, abbiamo chiaramente abbandonato, dopo aver buttato la gettata di cemento con i Vizi Capitali, abbiamo abbandonato quel filone, abbiamo preso un filone che è più ampio, che è quello del racconto di storie di confine, storie che stanno al confine tra una luce e un'ombra, e quindi che camminano lungo quella linea. E le storie di oggi parlano proprio di quello, però per quanto riguarda la lontananza, per quanto riguarda il tempo che intercorre tra i rapporti, perché nelle due storie di ascoltatori, non abbiamo una sola, ne abbiamo due, quella di Alessia e quella di Miriam. Si racconta del tempo intercorso tra l'incontro di una madre con un suo ex fidanzatino e l'incontro invece di una persona con sua sorella che non vedeva da quasi 20 anni. E nella seconda storia invece c'è addirittura un incontro con una persona che non si era mai vista prima, perché è una fan che incontra un suo idolo assoluto. La puntata di oggi si intitola Dopo tanto tempo. Mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. Io mi chiamo Alessio e vivo a Pistoia. Mio padre è pistoiese, mentre mia madre, Tina, è nata in Basilicata, in un piccolo paese chiamato Corleto Perticara. Lei è dovuta partire quando aveva 14 anni, circa 50 anni fa, perché era povera e in cerca di lavoro. Così lei e la sua famiglia trovarono lavoro nei telai a Prato. Lei, dalla sua partenza, è tornata al suo paese una sola volta e per soli 2 giorni, e non ho mai capito il perché. Mia madre mi ha sempre raccontato la sua partenza come un dolore molto profondo. A 14 anni lasciare amici, parenti e compagni di scuola per andare a lavorare in fabbrica è stato un dolore davvero molto forte. In più mia madre all'epoca era fidanzata con un ragazzo che mi ha sempre descritto come il ragazzo perfetto. Lasciarlo in quel modo deve essere stato uno strazio. Senza cellulari, sms o cose simili, il rapporto ovviamente si è troncato di netto. Qualche anno fa io decisi di andare a Corleto Perticara, visto che non lo faceva più mia madre. Era il 2012 e assieme a mia moglie decidemmo di fare un giro per il sud Italia, passando anche appunto da Corleto Perticara. Avevo 28 anni. Il giorno che sono arrivato sono stato accolto in ogni portone, come solo al sud sanno fare. Penso di aver bevuto 15 caffè quel giorno. Il giorno successivo io e mia moglie siamo andati a mangiare in un agriturismo poco fuori dal paese ed è lì che è successa una cosa incredibile. Il proprietario, nel momento in cui sono entrato, ha cominciato a fissarmi in modo strano. Dopo pochi minuti si è avvicinato, aveva gli occhi lucidi, mi ha guardato e mi ha detto «Scusa, ma tu sei un Viziello?» Viziello è il cognome di mia madre. «Io sono Amedeo», mi ha detto. Ed era proprio lui. Era il ragazzo perfetto, fidanzato con mia madre 14enne, di cui non ha più avuto notizie e che non aveva mai più rivisto. Dopo 50 anni, Amedeo ha ritrovato lo sguardo di mia madre nel mio e l'ha riconosciuto immediatamente. Dopo quell'episodio ho pregato mia madre di chiamarlo e di parlarci. Ora sono buoni amici, a distanza. E dopo quell'episodio ho forse capito perché mia madre non è mai tornata al suo paese, che ha lasciato con così tanto dispiacere. Show him that you care. Show him that you care just for him. And do the things he likes to do. Wear your hair just for him. 'Cause you won't get him thinking and a praying, wishing and a hoping. 'Cause wishing and hoping and thinking and praying. Kisses will start that won't get you into his heart. So if you're thinking of heartbreak, true love is. All you gotta do is hold him and kiss him and squeeze him and love him. Yeah, just do it. And after you do, you will be. Ogni tanto arrivano delle storie come quella di Alessio. Questa storia di Alessio è una storia davvero preziosissima. È una storia molto breve ed è il motivo per cui la metteremo insieme ad un'altra storia in questa puntata. Sapete, di solito noi la storia dell'ascoltatore la teniamo in un unico racconto. In questo caso era troppo breve per completare un'intera puntata, quindi l'abbiamo messa insieme alla prossima storia, che è la storia di Miriam. Però questa storia è una storia davvero preziosa, perché racconta... Non racconta nemmeno di un amore, racconta di un rapporto umano e racconta di cosa accadeva anni fa. E non parliamo di secoli fa, parliamo di 50 anni fa, quando le persone, un poco più di 50 anni fa, 60 in realtà, era il 2012, quindi quasi 60 anni fa, quando le persone sparivano dalla vita delle altre e non si facevano più vedere e non potevano più riapparire, se non con delle lettere o se non a grande distanza tra loro. Io ogni tanto ripenso a mia nonna e a mio nonno, ma è un pensiero che probabilmente le persone della mia generazione conoscono perché i loro nonni e le loro nonne hanno avuto queste esperienze. Ed era mio nonno che sposa mia nonna e dopo pochi mesi parte per la guerra e va in Libia e va in guerra, non va in un posto a cercare lavoro in pace, insomma, va in guerra, va in Africa e ci rimane per 3 anni. E scriveva delle lettere a mia nonna, ma mia nonna rimane al suo paesino a Trecate, con la famiglia, ma senza suo marito per 3 anni. Oggi lo dico proprio oggi perché questa è un'epoca in cui facciamo fatica a immaginare mesi. Cosa sarà di noi quest'estate? E potremo riaprire le scuole a settembre? E parliamo di comunque pochi mesi, perché siamo di fatto ormai quasi a maggio, quindi parliamo di 3, 4, 5 mesi. Nelle storie che invece abbiamo sentito raccontare dai nostri nonni si parla di anni, in questa storia si parla di 50 anni interi. Quindi grazie davvero ad Alessio per averci raccontato questa storia. La prossima storia invece è una storia che ci arriva da Miriam e in qualche modo anche questo per via di un incidente permette a due persone che erano lontane da tempo di tornare vicine. Il 28 aprile 2018 io e un gruppo di amiche siamo su un pullman direzione Euroflora, partite da Caldonazzo, provincia di Trento, alle 5 di mattina. Ci posizioniamo sui posti in fondo, in quanto gli altri sono già tutti occupati. Arrivati a Pergine Valsugana, d'improvviso sentiamo come un'esplosione. Veniamo sobbalzate contro il tetto del pullman per poi ritornare giù sui nostri sedili. Morale della favola. 3 persone con le vertebre rotte, una con lesioni al nervo sciatico, uno con problemi ad una spalla. L'autista aveva preso a velocità folle i dissuasori di velocità, non rispettando i limiti consentiti. Altra morale, anch'io ho fatto la mia quarantena, ma a letto, immobile, sdraiata, sulla schiena per 40 giorni e con il busto, senza mai alzarmi. Per mangiare potevo mettermi solo su un fianco. Ma da questa frattura io ho capito un sacco di cose. Ho capito che era attorniata da persone meravigliose, da amici e da parenti che mi hanno coccolata, dalle mie amiche che arrivavano quotidianamente con provviste alimentari in quantità industriali. Mi riferivano che avevo il frigo talmente pieno che non riuscivano a chiuderlo. Ma la cosa più straordinaria è stata la visita di mia sorella. Erano 20 anni che non ci parlavamo e non ci frequentavamo. Difatti adesso la quarantena, questa mi fa un piffero, perché io ho fatto 50 giorni, abbiamo noleggiato un letto d'ospedale, e io ho fatto 50 giorni di schiena, senza potermi mai muovere, a letto, e per mangiare dovevo mettermi su un fianco perché non potevo alzarmi più del 10%. In poche parole, io ero qua nel mio letto, immobile, che mi avevano lasciato sempre la porta aperta perché qualcuno potesse andare e venire. E ho sentito che bussano alla porta, ho sentito permesso e ho riconosciuto la sua voce. È venuta dentro, si è seduta e abbiamo iniziato a chiacchierare come se avessimo finito di chiacchierare ieri. Cioè, è stata veramente una grande emozione. Un giorno sento che sta arrivando qualcuno e quando la vedo penso: è successo il miracolo. Si è seduta vicino al mio letto e abbiamo iniziato a parlare. È stato un momento di enorme emozione e anche di sollievo. È rimasta con me 20 minuti e poi se n'è andata, tornando anche le settimane successive. Quando sono arrivati più tardi mio marito e mia figlia, ho chiesto loro: ditemi che ho qualcosa di brutto, ditemi che sto morendo, perché non so se avete capito, ma è arrivata mia sorella a trovarmi. Da quel letto poi, dopo lungo tempo, mi sono alzata e ho ripreso la mia vita. Il riavvicinamento di mia sorella ha fatto sì che dopo tanto tempo tornasse a frequentare la casa materna, trovandoci tutti fratelli assieme, con mia mamma finalmente serena per questo riavvicinamento dopo tantissimi anni. Lei, che in tarda primavera ha iniziato a stare male, vedendoci tutte insieme, era tornata ad essere sollevata e serena e grata di quella mia frattura che aveva fatto in modo di riunirci tutti. La mamma se n'è andata serena a settembre, lasciandoci una grande eredità di amore e di comprensione, e ci ha fatto capire che solo il tempo appiana tutte le ferite, tutti i silenzi e le parole dettate dal cuore e mai dette. Io quest'anno, l'8 marzo, l'ho festeggiato pranzando per la prima volta dopo tantissimi anni assieme alla mia famiglia e a mia sorella. Questo è stato il più bel regalo che noi donne ci potevamo fare e dare. La puntata di oggi si intitola Dopo tanto tempo e già dopo la storia di Miriam più o meno avete capito il motivo per cui l'abbiamo intitolata così, perché racconta di persone, di rapporti, di amicizie, di legami che si riuniscono dopo lungo tempo. E qui il tempo è stato, devo dire, abbastanza lungo, perché se non mi sbaglio, adesso lo chiederemo subito a Miriam, sono circa 20 gli anni che sono intercorsi tra l'ultimo e il nuovo incontro con la sorella. Pronto? Ciao Miriam, buongiorno! Ciao Matteo, buongiorno. Come stai Miriam, bene? Bene, grazie, bene, tutto Senti, bene. Ho detto bene, 20 anni? Sì, forse qualcosa in più. Ma il motivo Miriam, qual era stato? Sono i soliti motivi familiari, cose di... Esatto, i soliti motivi familiari, i soliti motivi relazionali tra fratelli, cose di eredità, cose che succedono in... tantissime famiglie, non dico in tutte, ma in tantissime famiglie. Perché effettivamente il tema del denaro e dell'eredità, no? Che è sempre considerato un tema un po' quasi, no, sporco, per cui ma non parliamo di queste cose. In realtà però, quando arriva il momento, diciamo, la carne al fuoco da bruciare, quel problema lì c'è sempre, anche probabilmente nelle migliori famiglie, no? Cioè, cos'è mio, cos'è certo. Tuo, cosa pensavi che fosse tuo invece è mio. E tu stai utilizzando il mio... Ed è un po' demoralizzante, no? Nel momento in cui ti trovi... Sì. Tu in questi 20 anni avevi mai cercato di ricontattarla, di averci a che fare? Sì, ma era impossibile perché, vedi, con le relazioni tra fratelli anche, dopo magari una cosa detta male, se la risolvi subito... è finita, ma più passa il tempo certo, i giorni sono dei mattoncini che passano il tempo, passano gli anni, questi mattoncini diventano dei muri e poi è difficile ritornare al dialogo. Ma voi abitate vicine? No, lei abita in un altro paese. Però diciamo non in un'altra regione, in un'altra città relativamente vicine. In un altro paese. Sì, 20 chilometri da... E neanche per caso vi siete mai incontrate? Ci siamo incontrate qualche volta, però lei andava da una parte e io andavo dall'altra. Ah, ma che cosa brutta. È proprio brutto. E tra l'altro tu insomma hai una voce giovanile, no? Però immagino abbia una cinquantina d'anni tu, Miriam, grosso modo. 59. Vabbè, perfetto, li porti benissimo. Dopo 20 anni sei diventata, cioè uno diventa un'altra persona, no? 20 anni. Quindi quando vi siete trovate una di fronte all'altra, che cosa vi siete detto? Cioè, di cosa avete parlato? Cosa ci si racconta dopo 20 anni che non ci si parla? Allora, lei, se avete sentito il racconto, lei si è seduta vicino a me quando io ero a letto immobile e abbiamo parlato del più e del meno, però è stato un discorso come se ci fossimo lasciate il giorno prima, capisci? Cioè, non abbiamo toccato nessun argomento. Sì. Quindi di quei 20 anni non ne avete parlati? Ne avete parlato, no, di quei 20 anni? No. C'è stato il silenzio. E poi però dopo avete trovato il modo per parlarne o semplicemente continuate a relazionarvi come se quei 20 anni non ci fossero stati? Ci siamo per il momento non abbiamo ancora affrontato l'argomento. Ah, ok. Però almeno ci si parla. Beh, capisci? Sì, ci sì, è già qualcosa. Si condivide. Insomma, dai, Natale, ci si fa gli auguri. Io sono rimasto abbastanza stupefatto invece dalla dinamica dell'incidente che ti ha portato poi a riconoscere tua sorella. Cioè, di fatto, questo autista non ha fatto altro che prendere un dissuasore del traffico ad alta velocità. Eh sì. E ha portato queste conseguenze, è incredibile. 3 con le vertebre rotte, una con problemi alla sciatica e l'altra problemi a una spalla. È stato come un'esplosione. Adesso ho il danno permanente. Quindi hai dolori particolari? Certo, perché la mia vertebra non si è saldata bene, si è ballata, quindi di conseguenza io è come se avessi un sasso piazzato fisso dietro la schiena. Senti, ma questa autista non l'ha fatta franca, mi auguro. Siamo per vie legali. Ok. Cioè, non sappiamo neanche che faccia abbia l'autista, non ci ha chiesto né come stiamo, neanche durante la convalescenza, cioè sono passati 2 anni e non si sa niente. Tu ricordami che lavoro fai, Miriam. Io sono impiegata per la provincia autonoma di Trento e lavoro presso un circolo di coordinamento delle scuole dell'infanzia. Quindi adesso ovviamente è tutto chiuso, lavorate da casa? Adesso è tutto chiuso, però noi lavoriamo da casa e gestiamo tutto da casa. E che tipo di progetti state facendo? Avete delle linee guida dalla regione rispetto al prossimo anno? O state lavorando come ipotizzando che tutto riparta? E noi stiamo ipotizzando che tutto riparta con settembre, si spera. Però nel frattempo le nostre insegnanti si sono già attivate per contattare i genitori via mail e per fare delle attività con i bambini. Chiarissimo. Quindi mandano delle storie, delle fiabe, cioè tengono vivo il rapporto con i loro bambini, le insegnanti, chiarissimo, anche con i genitori. Tra l'altro, scusa Miriam, e poi ti saluto che devo chiudere, però mi ha fatto ridere il fatto che l'ultimo pranzo insieme a tua sorella l'abbiate fatto l'8 di marzo, che è stato il giorno prima che chiudessero, ma poi il giorno prima che chiudessero tutta l'Italia praticamente. È vero. Quindi l'avete presa al volo, in sostanza. Al volo l'abbiamo presa, perché altrimenti non sarebbe successo. Miriam, ti ringrazio moltissimo per il tono del tuo racconto, per la chiacchierata e mi auguro davvero, primo, insomma, che magari migliori un po' la condizione della tua schiena e che migliori sicuramente il rapporto con tua sorella, che però mi sembra già sulla buona strada, insomma. Sì. Si sta ricucendo bene. E magari, visto che so che c'è un'altra storia, la prossima stagione l'aspettiamo. Va bene. D'accordo. Grazie mille. Grazie molto. Ciao Miriam, buona giornata anche a te. Ciao. Ciao. Girl, I just want you to La puntata di oggi si intitola Dopo tanto tempo e avete capito anche il perché, l'avete capito da queste due prime storie, dalla storia di Alessio e dalla storia di Miriam, che parlano di due occasioni diverse, parlano di due eventi diversi, però di fatto parlano di un incontro che avviene dopo tantissimo tempo. Nel caso di Miriam anche lei dice grazie ad una frattura. Linee d'ombra chiocciola radio24.it è l'indirizzo per mandarci la vostra di storia, la vostra storia che sta al confine con qualcosa. Ora al nostro confine sono le borse in diretta e poi torniamo qui a raccontare a Linee d'ombra. Linee d'ombra. Andrea Siegel è una scrittrice californiana. Il suo romanzo Desordio nel 2004 è andato piuttosto bene nelle vendite. La rivista People ne ha fatto una bella recensione e due anni dopo ha pubblicato un secondo romanzo che si intitola To Feel Stuff. Ma nonostante le legittime aspettative di Andrea, questo secondo libro è passato del tutto inosservato. È rimasto nelle librerie pochissime settimane e le vendite sono state veramente esigue. Il risultato è che nessuno lo ha letto e ne ha parlato. Ma un insuccesso così clamoroso ha portato comunque per Andrea una sorpresa molto inaspettata. In una puntata che si intitola Dopo tanto tempo, la seconda storia di oggi è la sua. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Nessuno ha letto davvero il mio secondo libro, nessuno. Semplicemente non ha funzionato. Non ha funzionato niente a livello commerciale ed è stato subito dimenticato. Una mattina del 2008 però, su una foto che ho trovato su Twitter, ho visto Britney Spears che usciva da un ristorante di Malibu tenendo in mano un pacchetto di sigarette, un telefono premuto contro le sigarette, una busta di carta appallottolata e premuta tra il braccio e il seno, ho riconosciuto la copertina di quel mio libro, del mio secondo libro. Non penso di avere mai raggiunto quel livello di eccitazione altre volte nella mia vita, mai. Io adoro Britney Spears, da sempre. L'ho sempre adorata per il suo essere introversa. Mi sono convinta che le piaccia esibirsi e le piaccia quell'aspetto del suo lavoro, ma che odi completamente tutto il resto. Per questo mi identifico molto con lei e per questo avrei voluto chiederle dove l'avesse preso il mio libro e, cosa più importante, se le fosse piaciuto. Purtroppo sapevo che avevo a che fare con una delle celebrità notoriamente più irraggiungibili del pianeta. Ho rapidamente eliminato il percorso ufficiale. Scrivo per una rivista e ho pensato di poterla intervistare, ma il manager di Britney, contattato dalla redazione, ha detto subito di no a un'intervista. A quel punto ho pensato che avrei dovuto scoprire chi, fra i miei conoscenti, aveva una qualche connessione con lei. Trovo un amico che lavora nella moda che mi fa scivolare l'email del suo stilista insieme a una nota che dice «Non hai ricevuto nulla da me, mi raccomando». Anche questa strada mi risulta però impraticabile. Britney Spears vive in un paradosso davvero strano. È impossibile parlare con lei, eppure ogni suo movimento è tracciato. Nel 2008, anno in cui è stata scattata quella foto col mio libro, è stata la persona più cercata su internet. Anche ora, nonostante trascorra una vita più normale, passando un sacco di tempo in casa con i suoi due giovani figli, i paparazzi la fotografano continuamente. In base a questi ragionamenti, mi schiarisco le idee su come fare. Se non riesco a organizzare un incontro con Britney, la mia unica speranza è incontrarla per caso. E grazie alla quantità pazzesca di foto dei paparazzi, arrivo a conoscere il luogo dove potrebbe essere più probabile che questo accada. E quel posto è il centro commerciale The Oaks Mall, a Thousand Oaks in California, a pochi chilometri da casa sua. Una volta raggiunto il centro commerciale, mi convinco che sia la scelta giusta. Tutti nel centro l'hanno vista, tutti. Povera ragazza, dice il tipo di Starbucks, non può nemmeno uscire di casa senza essere assalita. È così carina, aggiunge l'addetto alle vendite di un negozio di abbigliamento. Il suo collega annuisce lentamente e aggiunge che ha sempre una bronzatura dorata. Mi raccontano di quella volta che insieme a sua madre ha voluto a tutti i costi provare un top blu e poi mi danno l'indizio più interessante. Ha sempre dei libri in mano, sempre. Ma a parte l'entusiasmo nel saperla una grande lettrice, anche la Oaks Mall in una settimana di appostamenti non funziona, non cava un ragno dal buco. L'unica opzione rimasta è quella di arrivare a lei nel modo più antiquato di tutti, pagando. Yeah. Britney Spears stava organizzando in quel periodo una serie di concerti a Las Vegas e avrei potuto comprare i biglietti per lo spettacolo e, pagando un extra, avrei potuto acquistare anche un incontro per un saluto con lei. I cosiddetti meet and greets, cioè incontra e saluta, sono una consuetudine consolidata nei tour delle pop star. Miley Cyrus costa 1000 euro, Rihanna o Kanye 10.000 euro. Il meet and greet di Britney Spears costa 2.500 euro. Lo acquisto e immediatamente mi arriva un'email di conferma che mi informa che il conto alla rovescia si è acceso. Avrei incontrato Britney il giorno di San Valentino al Planet Hollywood di Las Vegas. Ma non c'erano informazioni sull'incontro e io avevo bisogno di sapere. Dovevo avere il tempo per chiederle del mio libro. Ma quando ho chiamato il numero indicato per qualsiasi informazione a riguardo, non ho avuto buone notizie. Non hanno saputo dirmi quanto tempo avrei passato con lei, né se avrei potuto farle delle domande. Sicura di avere già buttato un sacco di tempo e di soldi e senza nessuna garanzia di successo, la mattina del 14 febbraio sono volata a Las Vegas per incontrare Britney Spears. Tutta Las Vegas era prenotata, così sono stata costretta a prendere un albergo così lontano che non avevo nemmeno una slot machine, niente. Con grande anticipo ho chiesto al portiere di chiamarmi un taxi, ero ansiosa di arrivare in tempo. Sul taxi, per scaricare la mia tensione, ho detto all'autista che stavo andando a incontrare Britney Spears e lui mi ha detto che l'aveva avuta come sua cliente su quel taxi. Più tardi, arrivata al Planet Hollywood, mi accosto alla biglietteria speciale per il meet and greet. Eravamo circa in 50 e io ero un po' demoralizzata. Là ho conosciuto Felicia, un'amica intima di Britney che avrebbe gestito l'incontro. Era vestita con una tuta da meccanico accorciata e ristretta nei punti giusti e con la scritta Team Britney glitterata sulla schiena. Felicia ci porta sul palcoscenico vuoto, così possiamo avere un'idea di come appare il mondo attraverso gli occhi di Britney. Poi ci mostra i bauli dove sono conservati gli abiti da ballo. Proprio quando pensi di essere finalmente arrivato, compare qualcos'altro. Felicia ci mostra le ali che Britney indossa durante la canzone Every Time e ci tiene a dirci che sono centinaia di finte piume di cotone e di seta. A questo punto mi appare abbastanza chiaro che ho pagato 2.500 euro, non per incontrare Britney, ma per incontrare Felicia. Arrivati in una stanza, si ferma per fare con noi una simulazione dell'incontro. Le regole sono che non dobbiamo toccarla né abbracciarla, mai. Se sentiamo un abbraccio che non possiamo soffocare, dobbiamo abbracciare Felicia e non Britney. Non dobbiamo fare movimenti improvvisi. Se abbiamo le mani in tasca e ci viene da tirarle fuori, va bene, ma lo dobbiamo fare molto lentamente. Dice che Britney è molto timida. Io aspetto che Felicia arrivi al momento in cui possiamo fare almeno una domanda a Britney, ma quel momento non arriva mai. Quindi alzo la mano e chiedo se ci sarà permesso di parlare effettivamente con lei. Mi dice che no, che non ci sarà molto tempo, ma se abbiamo da dire qualcosa, dobbiamo comunque provarci. Subito dopo ci chiede di mettere i nostri oggetti personali dentro a degli appositi contenitori e poi ci ordina di metterci in fila. L'incontro vero e proprio avviene sul palco. Ci fanno aspettare in un'altra stanza, in modo da non vederla se non solo durante l'incontro. Abbiamo pochissimi minuti a testa, io ho due persone davanti a me. Dopo il loro turno, Felicia mi viene a chiamare e salgo sul palco. Britney mi aspetta, rivolta verso la macchina fotografica che aspetta entrambi. Ciao Britney, sono Andrea. Lei mi sorride sempre voltata verso il fotografo e io le dico: guarda, devo solo chiederti questo. Ho visto una tua foto con un libro intitolato To Feel Stuff. Ti ricordi questo libro? Solo a quel punto lei si gira verso di me con uno sguardo completamente diverso e mi dice: certo, lo ricordo. E io le dico: e ti è piaciuto? E lei mi risponde: sì, l'ho amato. Baby, can't you see? I'm calling. storia di Andrea Siegel l'ha raccontata lei stessa in un podcast che si chiama Mystery Show e che si intitolava Britney, che raccontava esattamente questa storia qua, la storia col suo incontro con questa enorme fan, con Britney Spears. Il tema dell'incontro con i fan è un grande tema e probabilmente ognuno di noi ha un idolo incredibile, che sia un calciatore, che sia un cantante, che sia il papa, insomma, non so chi sia, ognuno c'ha il suo. Se per caso una storia come questa vi ha fatto venire in mente un incontro come quello, un incontro che avete fatto dopo anni e anni di ricerca, oppure che è capitato per caso col vostro idolo, con, che so, Vasco Rossi, con Tiziano Ferro, adesso dico i primi nomi che mi vengono in mente, e volete raccontarcelo, fatelo, lineedombra@radio24.it, quella volta in cui avete varcato il confine della popolarità e siete entrati in contatto col vostro idolo di sempre. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare le storie dei vostri diari dalla quarantena, qui a Linea. Promo 24. Sono tanti i settori in crisi a causa del coronavirus. Uno dei più colpiti è il turismo ed eventi, tra i più importanti motori dell'economia e della cultura italiana. I principali operatori del turismo chiedono a gran voce un fondo straordinario per fronteggiare la crisi. Le associazioni Astoi Confindustria Viaggi, FTO e importanti operatori del comparto hanno promosso il Manifesto del Turismo per l'Italia, che con l'hashtag Ripartiamo dall'Italia chiede il sostegno di tutti per la ripartenza del turismo. Operatori del settore e consumatori possono aderire al manifesto sulla piattaforma change.org. Salviamo il turismo, salviamo l'Italia. Info e aggiornamenti su ripartiamodallitalia.it. Linee d'ombra. I diari dalla quarantena, che poi in realtà abbiamo deciso di chiamare la quarantena, ma abbiamo imparato abbastanza bene che la quarantena è un'altra cosa rispetto a quello che stiamo facendo noi. Noi stiamo facendo distanziamento sociale, stiamo rimanendo a casa, eccetera, eccetera. Verrà probabilmente coniato un nuovo termine, un nuovo nome, ma tant'è, li abbiamo per semplificazione chiamati diari dalla quarantena. In questa puntata abbiamo due brevi episodi, abbiamo due piccole storie, che entrambe però arrivano in qualche modo dal campo, da situazioni in cui si vive in prima persona quello che sta accadendo, perché la prima arriva da un medico di un ospedale, la seconda invece arriva da una mamma che ha un figlio con un problema serio, che è un problema legato all'autismo, e in queste situazioni, come bene sappiamo, le persone più fragili hanno ovviamente maggiori difficoltà. Cominciamo con la prima. È il mio primo giorno di riposo dall'ospedale, dopo un bel po' di tempo, e ho pensato di scrivervi. Sono Roberto, un ortopedico che lavora all'ospedale di Piacenza, e non sono in prima linea come i miei colleghi del pronto soccorso o i miei amici rianimatori di questo ospedale. Ma ai pazienti contagiati in pronto soccorso ortopedico li vediamo anche noi, femori, caviglie, polsi e ferite. E non sempre abbiamo tutti i presidi di protezione. Ma non è tempo di polemiche. Tutti in ospedale e in amministrazione si stanno facendo in quattro per salvare le vite. Oggi sono in completa solitudine con i miei cagnoloni. Non vedo la mia compagna da un mese. Noi dell'ortopedia di Piacenza siamo già stati colpiti pesantemente da questo nemico invisibile, in 6 su 13, primario compreso. Uno dei ragazzi, 52 anni, 4 figli, è gravissimo in rianimazione al Maggiore di Bologna. Io mi sento quasi in colpa, infatti, ad essere a casa oggi. Avevo chiesto ad una mia collega se voleva un cambio, io al suo posto di guardia, per farla riposare un po'. La tensione che ci portiamo addosso, il peso di quello che vediamo ogni giorno, il dolore per quelli di noi caduti sul campo e per i pazienti che continuano a morire, solcherà le nostre anime per sempre. E tutto questo viene amplificato nel silenzio e nella solitudine di questa casa. Per questo motivo vorrei tornare subito a combattere, senza riposo, con l'adrenalina addosso. Noi medici ora siamo come i piloti della Seconda Guerra Mondiale. Sappiamo bene i rischi che corriamo ogni volta che saliamo sul velivolo. Abbiamo lo stesso coraggio, la stessa bravura, la stessa determinazione e abnegazione che avevano loro. Ma anche, non ve lo nascondo, la stessa paura di essere abbattuti. Roberto. E la prossima storia, invece, come vi dicevo, è un diario di una mamma. Una mamma con un figlio che si chiama Giorgio. Ieri era la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo e come sempre Giorgio, questo è il nome di mio figlio, faceva qualcosa con i compagni e regalava un dolcetto di colore blu, naturalmente a cui allegava un bigliettino personale, e noi a casa abbiamo fatto lo stesso. Ci servivano dei chupa chupa e qui come sempre è scattata la linea della rete, gruppo WhatsApp, con amiche, conoscenti, colleghi di lavoro. ti trova al ciupa ciupa la mia cara amica Sara, che passa dal tabaccaio e riesce a comprarne 40. Diciamo che la parte più difficile era già stata svolta i giorni precedenti al 2 aprile. Giorgio ha scritto i bigliettini e la sera, mentre guardavamo un bel film, ne ha legati uno a uno con un bel nastro blu al ciupa ciupa. Ne ha preparati 38. Ora la domanda: a chi consegnarli e in quale modalità? Alle ex maestre, ovviamente, ai vicini di casa, ai nonni, alle zie, agli educatori, alla babysitter, alle amiche della mamma, insomma a tutte quelle persone che ci sono vicine nei momenti di festa, ma soprattutto nei momenti di bisogno. La distribuzione si è svolta così: un bel vassoio con tutti i ciupa ciupa appoggiati e infiocchettati, e poi via in macchina, poiché abbiamo il permesso finalmente di poter girare nelle zone limitrofe del paese, e alla mattina abbiamo fatto circa 20 km girando per vie e frazioni vicine, e la consegna si è svolta in questo modo. Il ciupa ciupa veniva messo nella cassetta postale e su chi va telefonata a che si chiedeva alla persona a cui era stato consegnato di mettersi un fiocco blu o qualcosa di blu addosso. Nel tardo pomeriggio, secondo giro nelle località più impervie, le frazioni del paese dove abitano i suoi ex compagni, quelli della scuola media, che ricorda sempre con molto affetto. Giornata intensa terminata con un dolce in anticipo, una buonissima colomba artigianale. Una sola riflessione, doverosa. L'autismo penso che sia una gabbia che chiude questi ragazzi nei loro riti, nelle loro ossessioni, che se mancano li fanno stare male. Noi che siamo chiusi in casa in fin dei conti da solo un mese, proviamo a metterci nei loro panni. E dobbiamo anche pensare che talvolta è necessario, perché stare vicino a loro, entrare nella loro gabbia in modo da vedere il mondo dalla loro prospettiva, non è sempre così facile. Non per niente vengono definite persone neurotipiche. Ciao a tutti, Alida. All guiding me like a beast to some blood, and I can't get enough. I'm losing control, my body, my soul are slowly fading away, but I'm ready now to feel the power of change. I'm trying to take my soul, and I can't hide no more. Stumble out into the light, raise my fists up to fight, then I catch your eyes so full of love. Lord, what have I done? I cry at your feet, wounded for me and all of the monsters and men. But here in your light, we can begin again. I'm my mother's child, I'm my father's son. It took me a while, but my time is come. Stiamo per raccontarvi la seconda puntata, il secondo episodio della nuova storia seriale. È la storia di Irene e di suo marito, che un giorno si ammalano, un giorno di qualche settimana fa si ammalano. E da poco si sa che c'è un virus in Cina e che probabilmente sta arrivando in Italia. Le notizie sono frammentarie e poi a un certo punto esplodono verso fine febbraio e arriva il panico. E tutte le persone che cominciano ad avere quei sintomi si domandano: sarà quello?